Gli si avvicinarono i farisei e i sadducei per metterlo alla prova e chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Egli rispose: «Quando viene la sera, dite, sarà bel tempo, poiché il cielo rosseggia, e la mattina, oggi ci sarà burrasca, poiché il cielo è rosso cupo. Sapete sì giudicare l'aspetto del cielo, ma non sapete discernere i segni dei tempi. Generazione malvagia e spergiura, chiede un segno, ebbene le sarà dato, ma solo quello di Giona». E lasciatili, se ne andò. I discepoli giunti all'altra riva si accorsero di non aver preso il pane. Gesù disse loro: «Badate di tenervi lontano dal lievito dei farisei e dei sadducei». Essi discutevano fra loro dicendo: «Già, non abbiamo preso il pane». Saputolo, Gesù disse: «Perché discutete fra voi, uomini di poca fede, per non aver preso il pane? Non capite ancora? Vi siete dimenticati dei 5 pani che bastarono per i 5.000 uomini e delle sporte che raccoglieste? E dei 7 pani con cui si sfamarono i 4.000 e degli avanzi che raccoglieste? Come non capite che non per i pani vi ho detto: tenetevi lontano dal lievito dei farisei e dei sadducei?» Allora capirono che non intendeva parlare del lievito con cui si fa il pane, ma della dottrina dei farisei e dei sadducei. Giunto poi Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, si mise ad interrogare i suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero: «Chi dice che sia Giovanni il Battista, chi Elia, chi Geremia o uno dei profeti?» Dice loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Prese la parola Simon Pietro e disse: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Rispose Gesù: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, poiché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra resterà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra resterà sciolto nei cieli». Poi comandò ai discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a dire chiaramente ai suoi discepoli che egli doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, sommi sacerdoti e scribi. Inoltre, che doveva essere messo a morte, ma che al terzo giorno sarebbe risorto. Allora Pietro lo prese in disparte e cercava di dissuaderlo, dicendo: «Dio te ne guardi, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, rivoltosi a Pietro, disse: «Va via da me, Satana, tu mi sei di inciampo, poiché i tuoi sentimenti non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Poiché chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi invece perderà la propria vita a causa mia la troverà. Infatti, che giovamento avrà l'uomo se, avendo conquistato tutto il mondo, è danneggiato poi nella sua vita? Oppure, che cosa potrà dare l'uomo quale prezzo della sua vita? Infatti, il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo insieme con i suoi angeli, e allora darà a ciascuno secondo la sua condotta. In verità vi dico, fra voi qui presenti ci sono alcuni che non gusteranno la morte finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire con il suo regno».